Il Senato sta per approvare la norma che mette in carcere i conisti e salva i direttori come Alessandro Sallusti, condannato a 14 mesi per aver diffamato un magistrato con una notizia falsa e mai rettificata. In Italia, come sempre, si salvano solo loro, i colpevoli!